Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia. Mi viene da sorridere perché non abbiamo neanche iniziato la trasmissione, sono già arrivati i primi messaggi. La prima domanda del primo ascoltatore al 349-238-6666 è: cara Deborah, ma quando Monti presenterà la manovra anche a noi? E beh, ce lo chiediamo tutti. Nel frattempo l'importante è che si sentano rassicurate le istituzioni europee, poi cercheremo di capirlo, visto che questa sera è in programma questo importante appuntamento con l'Eurogruppo e la Commissione europea di affari economici e monetari guidata da Olli Rehn presenterà soprattutto il suo rapporto sull'Italia e vedremo dunque che giudizio emergerà rispetto alle prime indicazioni degli interventi di Monti per riportarci sulla strada del pareggio di bilancio, sul sentiero della crescita, visto che ieri l'OCSE ci ha anche già anticipato che l'anno prossimo il nostro paese cadrà in recessione. Detto questo, di nuovo buonasera a tutti. Questa sera ci sono io a farvi compagnia con Focus Economia e naturalmente parleremo proprio del supervertice di Bruxelles, il rapporto sull'Italia, la prospettiva di riforma della Banca Centrale Europea, cosa sarebbe necessario fare per placare la tensione sul mercato obbligazionario dei paesi dell'Eurozona, tutte le discussioni che sono a tappeto, quelle che vanno bene alla Germania, quelle che invece non vanno bene appunto alla cancelliera Angela Merkel. Ci sono delle ipotesi che sono state fatte, che oggi sono state ribadite anche da alcune agenzie. Si parlerebbe addirittura, piuttosto che imprimere un'accelerazione alla strada del far diventare la Banca Centrale Europea prestatore di ultima istanza, proprio per comprare direttamente in maniera più massiccia, senza limiti, i titoli di Stato dei paesi in difficoltà, ci sarebbe questa ipotesi addirittura di erogare finanziamenti da parte della BCE al Fondo Monetario Internazionale, che a sua volta lì potrebbe far convogliare appunto questi soldi e queste risorse verso gli Stati in difficoltà. Una sorta di triangolo appunto che è stato ipotizzato anche stamattina dal Sole 24 Ore. Più tardi il corrispondente da Francoforte del Sole, Alessandro Merli, ci darà qualche dettaglio in più. Tra gli altri temi dei quali parleremo questa sera, ovviamente parleremo di borsa. Oggi davvero le borse del vecchio continente hanno toccato tutte le direzioni possibili, non hanno fatto altro che andare al di qua e al di là della parità più volte. Sono partite male perché naturalmente gli operatori hanno subito portato a casa qualche incasso dopo i rialzi di ieri, poi ci hanno ripensato, hanno virato tutto in positivo quando si sono conosciuti i risultati dell'asta del Tesoro italiano, che era in programma per questa mattina, che è andata molto bene dal punto di vista della domanda dei titoli italiani, ma i rendimenti sono schizzati verso nuovi livelli record. Adesso le borse hanno delle direzioni abbastanza differenziate perché sono incollate appunto alla parità Milano e Parigi. Francoforte è positiva, Londra è positiva ed è moderatamente positiva anche Wall Street. Sul Dow Jones almeno, che guadagna lo 0,47%, il Nasdaq è fermo, lo Standard & Poor's guadagna mezzo punto percentuale. C'è stato il dato sulla fiducia dei consumatori che è piaciuta agli operatori, ma questo è il massimo che oggi Wall Street riesce ad esprimere, e comunque accontentiamoci visto che vengono consolidati i rialzi di ieri. L'euro sul dollaro è 1,3328, poi per quello che riguarda, come il solito, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi, vi diremo com'è andata questa giornata, ma insomma la soglia dei 500 punti rimane sempre lì, è molto difficile a quanto pare abbandonarla. Di che cos'altro parleremo? Di tutto questo a Focus Economia questa sera, ma parleremo anche di un altro tema che per la verità solletica l'attenzione di molti da molto tempo, quello di investire in oro, in lingotti, e soprattutto a quanto pare c'è un grande travaso di lingotti d'oro dall'Italia verso la Svizzera, una sorta di export, no, chiamiamolo proprio così come va chiamato, che è stato scoperto dal nostro Giuseppe Chiellino, collega del Sole 24 Ore, appunto, che ha studiato questo fenomeno e soprattutto che numeri sta registrando, e poi vi diremo appunto quello che sta accadendo. Vi leggo solamente il titolo del suo pezzo di questa mattina sul Sole: export in Svizzera, suon di lingotti, solo a settembre hanno varicato le Alpi più di 13 tonnellate d'oro, naturalmente sotto forma di lingotti. Per i vostri commenti sulla giornata di oggi, sui temi di oggi, il numero è sempre lo stesso, è il 349-238-6666. Adesso le altre notizie in breve della giornata. Allora, eccoci di nuovo insieme appunto per le notizie in breve della giornata. Stavo controllando un po' i messaggi che stanno arrivando anche da parte degli ascoltatori, perché le preoccupazioni continuano ad essere da molte settimane sempre le stesse, e vedo anche molti commenti sarcastici ancora sul tema delle misure impressionanti, così almeno le aveva definite Angela Merkel negli incontri con i vertici europei appunto della settimana scorsa, del presidente del Consiglio italiano designato Mario Monti. Vedremo se oggi questa definizione verrà ribadita. Intanto le notizie in breve, vi dicevo, si parte come sempre con il monitoraggio delle materie prime. L'oro oggi sui mercati appunto quotava in lieve calo rispetto alle quotazioni di ieri, intorno a $1,719 l'oncia. Per quello che riguarda invece il petrolio, oggi l'apertura a New York ha segnato $98,44 al barile. Notizie dalle società americane. Bancarotta per American Airlines. Il colosso americano questa mattina ha fatto ricorso alla Chapter 11, l'amministrazione controllata, al tribunale fallimentare di Manhattan a New York. Mentre sarebbe pronta, anche se non si concretizzerà prima della prossima primavera, quantomeno ne sarebbero state definite le caratteristiche, ma da qui alla prossima primavera chissà quante cose cambieranno anche per il mercato azionario, le caratteristiche della quotazione di Facebook, il più popolare social network appunto che si conosca. Secondo il Wall Street Journal ci sono già delle date ipotetiche per questo sbarco in borsa, potrebbe essere tra l'aprile e il giugno dell'anno prossimo, quindi per la verità un arco temporale anche piuttosto ampio, mentre la richiesta per la quotazione potrebbe essere presentata alla Consob americana, la Securities and Exchange Commission, già quest'anno, anche se l'amministratore delegato Mark Zuckerberg non ha ancora preso decisioni definitive. L'obiettivo è però molto ambizioso, sarebbe quello di raccogliere circa $10 miliardi con questa IPO, che in questo modo, con queste cifre, valuterebbe la società a qualcosa come $100 miliardi. Fondi di investimento giapponesi in fuga dagli asset in euro, con la quota relativa ai cosiddetti PIGS, Portogallo, Irlanda, Grecia, Italia e Spagna, dimezzata in un anno a circa $553 miliardi, circa €5,3 miliardi. A fine ottobre il valore di titoli e bond in portafogli è sceso del 30% su base annua ai minimi degli ultimi 7 anni e mezzo, giustificando così l'attenzione verso paesi emergenti o ricchi di materie prime come Brasile ed Australia. E non è che oggi le agenzie di rating siano state ferme, anzi sono state piuttosto attive, hanno cominciato abbastanza presto, per la verità hanno cominciato ieri sera, quando Fitch ha fatto sapere di aver deciso di confermare il rating di AAA degli Stati Uniti, ma ha detto anche, ha anticipato che rivede al ribasso le prospettive e sono appunto viste in negativo, quindi chissà se prossimamente Fitch interverrà con una sforbiciata appunto sul giudizio sugli Stati Uniti. Oggi si sono rincorse di nuovo voci sul destino del rating AAA anche della Francia. È il turno della Tribune a lanciare l'allarme. Il quotidiano appunto ha sottolineato che l'agenzia Standard & Poor's, che pochi giorni fa aveva erroneamente annunciato il taglio della valutazione, spaventando di nuovo parecchio il mercato, si sta apprestando a porre il rating in outlook negativo entro una settimana, al massimo 10 giorni. Secondo il quotidiano, che cita diverse fonti diplomatiche, l'annuncio era atteso già per venerdì scorso, ma per ragioni sconosciute sarebbe stato rinviato. Intanto la Francia mantiene la sua stima di crescita dell'1% per il 2012, nonostante l'OCSE, così come ha fatto per tanti altri paesi proprio ieri, abbia tagliato le sue aspettative ad un più modesto più 0,3%. Allora, andiamo un po' all'asta dei titoli di Stato italiani che era fissata per questa mattina, e come potete immaginare c'era una grandissima attesa relativamente a questo test che aveva in programma emissioni fra 5 ed 8 miliardi. Allora, il nuovo BTP triennale, con scadenza novembre 2013, che riconosce una cedola del 6%, è stato venduto in asta ad un rendimento stamane del 7,89%, il massimo dal 1997, mentre il BTP marzo, il BTP con scadenza marzo 2022, quindi un decennale, è stato venduto per 2 miliardi e mezzo, il massimo che il Tesoro voleva collocare, anche in questo caso con un rendimento davvero alto, il 7,56%. 1%. Il titolo invece che scade nel settembre 2020, collocato per circa 1,5 miliardi di euro, ha raggiunto come rendimento il 7,28%. Stamattina lo spread fra BTP e Bund in avvio di giornata era salito di nuovo intorno ai 520 punti base, poi dopo queste aste è sceso rapidamente fino ad arrivare a 492. È sempre più chiaro che il debito pubblico italiano è insostenibile e deve essere ristrutturato in maniera organizzata per evitare un default caotico. Non lo dice una persona qualunque, lo dice una persona che per la verità ci ha azzeccato più volte nelle sue previsioni, anche le più negative negli ultimi anni, Noriel Rubini, economista della New York University, noto appunto per alcune sue stime che hanno anticipato la crisi, e questo che dice sull'Italia lo pubblica in un articolo sul Financial Times pubblicato sul sito web del quotidiano. Andiamo all'economia italiana. Il centro studi di Confindustria rileva una sostanziale stazionarietà della produzione industriale a novembre, stimando un meno 0,1% su ottobre, quando si era avuta una variazione di meno 0,2% su settembre. Nel quarto trimestre Confindustria dice che si registrerà un calo congiunturale dell'attività dopo la contrazione del terzo e l'incremento del secondo trimestre, un incremento che peraltro era pari all'1,1%. Sale ad ottobre su base annua la forbice fra l'aumento delle retribuzioni contrattuali orarie più 1,7% e il livello di inflazione più 3,4%, toccando una differenza pari all'1,7%. Il precedente record era dell'1,3%, quindi si tratta, riferendoci appunto all'ultima statistica, del divario più alto almeno dal 1997. Un altro dato preoccupante è stato diffuso oggi dal gruppo Cerved. In Italia non si ferma la corsa ai fallimenti, con 2.207 default registrati fra luglio e settembre, più 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2010, salgono a 14 i trimestri consecutivi con un aumento di aziende fallite rispetto all'anno precedente. Drammatico, come potete immaginare, l'effetto sui livelli occupazionali. Dall'inizio della crisi sono stati persi quasi 300.000 posti di lavoro di aziende fallite. Si è conclusa con la firma nella notte dell'accordo la procedura di consultazione sindacale nell'ambito della cessione di Tirrenia al gruppo CIN, Compagnia Italiana di Navigazione. Per l'operatività dell'intesa bisogna però attendere adesso il verdetto dell'antitrust europeo. L'accordo, siglato da Filt, Fit e Wilt, i sindacati di categoria, garantisce il passaggio alla compagnia di tutto il personale, sia navigante che amministrativo. Saranno garantite le attuali condizioni retributive anche quelle normative ed economiche in attesa del rinnovo del contratto scaduto lo scorso anno. L'ultima notizia, prima di andare al nostro primo approfondimento di oggi, è stato condannato a 5 anni di reclusione l'ex banchiere Cesare Geronzi, imputato per bancarotta fraudolenta ed usura nell'ambito del processo Ciappazzi, nato da una costola dell'inchiesta sul crack Parmalat del 2003. 4 anni anche per Alberto Giordano, all'epoca dirigente di Capitalia, 3 anni e 7 mesi per Matteo Arpe, nel 2002 amministratore delegato del gruppo. E adesso naturalmente dobbiamo spostare la nostra attenzione verso l'Europa e andiamo a Bruxelles. Allora, una squadra snella e forte che si impegnerà perché l'Italia esca da una situazione molto difficile. Mario Monti ha presentato così i nuovi sottosegretari al giuramento di Palazzo Chigi. Vittorio Grilli, suo vice all'economia, è invitato permanente al Consiglio dei Ministri, aggiunge il Premier che assicura trasparenza nell'azione di governo, rispondendo così alle accuse di conflitto di interesse. A prescindere da quello che è accaduto questa mattina a Roma, questa è una settimana che è considerata da molti osservatori cruciale per il governo e più in generale per l'economia italiana. Mario Monti è arrivato poco fa, circa un'ora fa, a Bruxelles, dove parteciperà

cioè tutto il finanziamento che non riguarda le ricapitalizzazioni a breve. Gli elementi di questo pacchetto non sono ancora chiusi, quindi fino a quando non saranno chiusi le ricapitalizzazioni non potranno partire. Presumibilmente si può dire, cioè si capisce che non è, difficilmente saranno pubblicate domani, ma nel giro di qualche giorno, se la discussione andrà in un senso positivo. Nulla fa pensare che non vada in un senso positivo, anche perché ci si rende conto qui a Bruxelles che l'impatto sui mercati di un rinvio effettivo dell'avvio delle ricapitalizzazioni sarebbe un segnale molto negativo, quindi nessuno se la sente di correre il rischio. Antonio, io ti ringrazio per essere stato con noi. Naturalmente le ore più importanti per quello che riguarda lo svolgimento dell'Eurogruppo e dell'Ecofin saranno le prossime, per cui ti ricontatteremo senz'altro per raccontarci l'evoluzione delle trattative e delle discussioni. Grazie e buona serata. Allora, intanto io prima vi dicevo appunto, ma ve lo abbiamo raccontato anche nel corso dei nostri giornali radio, che oggi appunto Mario Monti ha definito e ha completato la presentazione della sua squadra di governo. C'è stato il giuramento appunto dei sottosegretari, una squadra snella e forte l'ha definita Monti al termine del giuramento. Monti ha sottolineato che in termini di numero appunto le persone in Consiglio dei Ministri, lo ha detto evidentemente con soddisfazione, anche questo porterà, si spera, ad una riduzione dei costi della politica, sono scese da 26 a 19. Allora su questo punto sentiamo il Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa è una squadra snella e forte in termini di numeri rispetto al precedente governo. Il numero complessivo delle persone che siederanno nel Consiglio dei Ministri, composto dal Presidente, dai Ministri e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, scende da 26 a 19. Il numero dei Vice Ministri e Sottosegretari scende da 40 a 28. Stiamo attenti prima di parlare di conflitti di interesse, noi saremo di una trasparenza totale, ma essersi dedicati in passato ad attività nella società civile, nelle istituzioni e nell'economia e accettare adesso un impegno di governo significa, a mio giudizio, una disponibilità generosa e non il trascinare con sé esperienze sì, ma interessi del passato certamente no. Allora, noi adesso ci fermiamo, abbiamo un po' di pubblicità, poi ritorneremo prima di raccontarvi come è andata oggi la borsa. Comunque Milano si appresta a chiudere con un rialzo dello 0,23%, vi racconteremo anche delle novità di Francoforte, della Banca Centrale Europea, cosa sarebbe necessario fare perché la BCE possa aiutare i paesi in difficoltà a sostenere appunto la situazione che è maturata nelle ultime settimane, come potrebbe la BCE diventare prestatore di ultima istanza alla pari della Banca Centrale del Giappone, alla pari della Banca Centrale Americana. Che punto è questa discussione, quali ostacoli? A tra pochissimo. E allora un ascoltatore, ben ritrovati a Focus Economia da Deborah Rosciani, ci scrive: ma è mai possibile che nessuno dei vari governanti non proponga l'unica soluzione a lungo termine, ovvero gli Stati Uniti d'Europa con BCE come la Federal Reserve? Allora, se sulla prima parte, non so se ci possiamo arrivare, dati gli interessi appunto estremamente differenziati che in Europa ci sono, e prima di poter arrivare ad un modello federale come quello degli Stati Uniti credo che dovranno passare diversi altri secoli, però che la Banca Centrale Europea possa diventare il prestatore di ultima istanza come la Federal Reserve non so se sia possibile in tempi rapidi, di certo è il sogno più accarezzato degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, buonasera. Ci sei? Sì, buonasera. Alessandro, buonasera. Allora, come tu scrivevi questa mattina sul Sole 24 Ore, come ben ricordavi, la Banca Centrale Europea è l'unica istituzione europea, sarebbe l'unica ad avere gli strumenti in questo momento per respingere il pesantissimo attacco ai mercati dell'area euro, e potrebbe farlo appunto attraverso l'acquisto dei titoli di Stato, che già sta facendo, però questa è, come dire, un'arma che non può essere utilizzata a lungo, non ha delle risorse illimitate, almeno la Banca Centrale Europea in questa forma. I trattati che disciplinano la sua attività in vigore adesso fissano dei limiti alla sua capacità di intervento. Si sta ipotizzando

già con questo effetto di annuncio probabilmente il mercato farebbe per la BCE una parte del suo lavoro, cioè il mercato, sapendo che c'è la BCE pronta a difendere questo obiettivo, probabilmente comincerebbe ad adeguarsi da solo, e poi la BCE dovrebbe comprare titoli molto più di quanto non stia facendo adesso. Noi sappiamo, anche se non è mai stato annunciato ufficialmente, che c'è un limite che può essere modificato di circa 20 miliardi di euro la settimana. Sappiamo che la settimana scorsa la BCE è intervenuta per 8 molto miliardi, meno. Quindi ci sono dei margini ancora, anche dentro le regole inespressi, attuali, abbastanza ampi perché la BCE possa intervenire. Il problema è che, come dire, gli effetti… 20 miliardi di euro la settimana sono 1.000 miliardi all'anno, non infatti è poco. No, tra l'altro non capisco come mai ci senti in così, con questo ritardo, Alessandro. No, stavo solamente ragionando, perché per la verità questa perplessità la stanno evidenziando anche molti ascoltatori, e che se effettivamente anche con gli interventi fatti in maniera inedita fino a questo momento dalla Banca Centrale Europea, anche se le potenzialità, come ci dicevi, sono molte di più, non hanno avuto grandi effetti sui rendimenti dei titoli di Stato, basti vedere l'esperienza italiana, ci chiediamo quante cartucce debba sparare per poter placare appunto questa richiesta di remunerazioni sempre più alte da parte degli investitori internazionali. Alessandro, che ne dici? Beh, diciamo che al momento gli investitori non sanno esattamente che cosa vuol fare la BCE, anzi sanno che vuole intervenire in modo limitato e temporaneo, come ha detto più volte anche Draghi, e quindi diciamo in un certo senso la mettono alla prova. Comunque il montare di interventi fatti dalla BCE non sono tali da invertire la marcia dei rendimenti. È chiaro che nel momento in cui invece gli investitori fossero consapevoli che la BCE ha fissato un tetto, credo che sarebbero più attenti a sfidarla in modo aperto, e comunque se ai primi tentativi corrispondessero interventi abbastanza massicci da parte della BCE, il mercato forse si adeguerebbe. C'è un paragone abbastanza interessante con quello che è successo con il franco svizzero, no? Sembrava sì, che il franco svizzero dovesse apprezzarsi all'infinito. A un certo punto la Banca Centrale Svizzera ha fatto un annuncio abbastanza a sorpresa, devo dire. La Banca Centrale Svizzera ha annunciato che il franco svizzero non sarebbe andato oltre l'1,20 sull'euro nei confronti dell'euro, e è bastato questo annuncio di fatto perché il mercato si adeguasse. Poi la Banca Centrale Svizzera, che nei mesi precedenti aveva dovuto fare degli enormi interventi per impedire questa rivalutazione del franco che metteva in grossissima difficoltà gli esportatori svizzeri, di fatto dopo questo annuncio questi interventi li ha ridotti in modo drastico, perché in pratica il mercato, sapendo che c'era un limite invalicabile posto dalla banca centrale, si è adeguato. Adeguato di suo. Alessandro, grazie per essere stato con noi. Ringraziamo Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Peraltro, insomma, in Svizzera ci ritorneremo fra un po' per raccontarvi di queste grandi fughe di lingotti che dall'Italia appunto partono verso Lugano. Può sembrare una notizia pittoresca, non c'è per niente da ridere invece rispetto a quello che sta accadendo. Dopo l'apertura e l'esaurimento delle cassette di sicurezza presso le banche svizzere, adesso qua gli italiani stanno pensando di operare diversamente. Adesso ci fermiamo, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi vi raccontiamo della giornata di borsa che, per quello che riguarda Milano, si è conclusa con un rialzo dello 0,34%, meglio le altre piazze, l'euro sul dollaro a 1,3343. A tra poco. Eccoci ritrovati ancora a Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, che anche oggi sono stati tantissimi su tanti argomenti. Vedo, io purtroppo non ho l'autorevolezza di Sebastiano per commentare tutti i vostri commenti, comunque vi saluto tutti con affetto. Volevo anche rivolgere un saluto particolare ad alcuni amici americani che ci stanno ascoltando da Long Island, e per cui le persone a cui è rivolto questo saluto lo sanno. Noi ci fermiamo adesso invece per raccontare la giornata di borsa. Ci fermiamo, andiamo avanti per la verità, ci fermiamo per ascoltare la campanella che annuncia la chiusura di questa giornata sui mercati finanziari. Io ringrazio e saluto per essere con noi la collega Livia Zancaner di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Livia, buonasera. Buonasera. Allora, giornata che davvero le direzioni le ha prese tutte, perché come raccontavo in apertura siamo partiti con dei ribassi anche abbastanza vistosi di oltre un punto su tutte le piazze, e questo perché dopo i rialzi di ieri oggi qualcuno è subito passato all'incasso. Poi altre notizie hanno reindirizzato in territorio positivo le borse, che hanno guadagnato anche oltre un punto. Poi nel pomeriggio di nuovo un po' di incertezza. La giornata si è chiusa bene per Milano e anche per le altre borse europee, che hanno consolidato così la giornata più che positiva appunto vissuta ieri. Però, Livia, effettivamente le prestazioni sono abbastanza differenziate. Sì, allora bisogna dire che più o meno sono Milano e Parigi sono in linea. Milano ha chiuso con un rialzo dello 0,34%, questa mattina c'è stata appunto l'asta dei titoli di Stato che è stata accolta positivamente dal mercato grazie ad una buona domanda, anche se sono balzati i rendimenti. Per quanto riguarda Parigi ha chiuso a più 0,46%, ci sono sempre i timori di un declassamento dell'outlook a negativo da parte Standard & Poor's. Londra ha chiuso comunque in linea, quindi il rialzo dello 0,33%, una chiusura piuttosto fiacca, quindi in una seduta che è stata all'insegna del nervosismo e della volatilità. Infatti poi peraltro proprio a causa della preoccupazione per il possibile taglio del rating francese, che non è una novità, ormai questa notizia si rincorre da tempo, stamattina le banche francesi facevano molto male, perdevano più del 4% tutte quante, vedo che sul finale invece perdono circa un punto, quindi hanno migliorato la loro seduta. Andrei però a Milano, più 0,34% sul FTSE MIB. Oggi la regina della seduta è una società che ha avuto invece giornate un po' più storte ultimamente, Azimut, chiude con un rialzo del 4,32%. Peraltro ieri, poi magari ne torneremo a parlare nel corso del BTP Day, questo gruppo ha annunciato il lancio di alcuni fondi di investimento che si chiamano Solidity, se non mi ricordo male, che investiranno solo ed esclusivamente sui titoli italiani. Ma non credo, Livia, che sia stata questa la notizia che oggi ha fatto balzare il titolo. No, infatti, allora il titolo è andato bene anche alla vigilia, nonostante alcune indicazioni negative arrivate dal management. Allora, praticamente Azimut è un operatore che si basa sostanzialmente sulla distribuzione tramite i promotori finanziari. Oggi Assoreti ha comunicato per il mese di ottobre una raccolta netta positiva per le reti di promotori finanziari pari a 507 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al mese precedente. Per quanto riguarda poi le notizie arrivate ieri, Azimut ha mostrato un saldo positivo di 112 milioni a ottobre, anche sul fronte del risparmio gestito, a fronte di pesanti deflussi invece registrati dalle banche. Quindi due notizie positive che hanno sostanzialmente compensato le indicazioni negative arrivate alla vigilia. Anche perché peraltro conosciamo come sta andando il mondo del risparmio gestito, che ormai è un'emorragia senza fine da non mesi, da anni, da almeno 4 anni, proprio perché le banche hanno fatto scelte diverse per incrementare la propria raccolta a discapito dei fondi comuni, e quindi queste notizie ovviamente quando sono positive per un gruppo chiaramente lo muovono positivamente, di conseguenza anche in borsa, soprattutto se si tratta di società quotate. Tenaris, secondo miglior titolo, più 3,23%, Buzzi Unicem più 3,5%, Mediaset più 2,79%, oggi recupera un po' anche la Popolare dell'Emilia Romagna più 1,90%, Luxottica più 1,83%, abbiamo avuto una buona giornata per Pirelli più 1,58%, Enel più 1,48%, Banco Popolare più 1,41%. Insomma, volevo cercare un'altra notizia, un'altra società della quale parlare. Andrei dall'altra parte allora della classifica, con Fondiaria che oggi ha lasciato sul campo il 2,66%. Livia. Sì, allora oggi si è tenuto il consiglio di amministrazione della società per valutare le misure da intraprendere per migliorare il margine di solvibilità, che è il patrimonio della società, che è sceso vicino al livello minimo, e proprio per questo motivo Standard & Poor's aveva tagliato il rating sul gruppo. Il management aveva comunque già dichiarato di voler tornare rapidamente ad un livello di sicurezza, quindi il mercato comunque aspetta notizie in tal senso. Inoltre alcuni esperti, secondo dei report circolati, ritengono che Fonsai dovrebbe procedere ad un aumento di capitale tale proprio per i requisiti patrimoniali arrivati sotto i livelli ritenuti adeguati, quindi comunque ci sono continue preoccupazioni sulla società e si aspettano novità. Mediobanca meno 2,33%, TOTS meno 1,79%, Lottomatica meno 1,74%, Fiat Industrial meno 1,74%, Saipem meno 1,23%, Banca Monte dei Paschi pure sotto i riflettori per le questioni legate alla fondazione, Monte Paschi meno 1,15%, Unicredit in ribasso di quasi un punto, STM meno 0,97%, stavo cercando Finmeccanica che chiude ferma sulla parità esattamente come Ansaldo, ma per questi due titoli, per alcune notizie che arrivano dall'altro capo del mondo, Livia, oggi erano partite molto meglio, poi hanno bruciato tutto. Sì, infatti questa mattina Finmeccanica e anche Ansaldo, ma soprattutto Finmeccanica aveva rimbalzato dopo i pesanti cali registrati nelle ultime settimane a causa dei conti deludenti e dello scandalo appunto sui finanziamenti illeciti ai partiti, ma poi il titolo appunto ha chiuso sulla parità. Le azioni sia di Finmeccanica sia di Ansaldo avevano beneficiato della firma di contratti ad Honolulu per la nuova linea della metropolitana per un valore di ben 1,33 miliardi. Anch'io voglio vincere dollari. Un appalto là. Chissà come si può fare, ecco, appunto. Andiamo a lavorare con Finmeccanica. Esatto, sì, oddio, non è proprio il periodo migliore questo, magari quando si saranno schiarite un po' di questioni anche legate a vicende giudiziarie e altri aspetti, però insomma queste notizie stamattina hanno fatto bene al gruppo. Sì, assolutamente Livia. Sì, in mattinata sì, poi probabilmente hanno prevalso ancora i timori sulla società e ricordiamo che da metà mese a ieri comunque il titolo Finmeccanica ha perso oltre il 30%, mm-hmm. quindi probabilmente poi gli acquisti si sono ridotti da metà seduta in poi. Infatti, peraltro si attendono anche delle notizie relativamente alle scelte dirigenziali del numero uno Guargaglini che ancora non arrivano, vedremo se arriveranno nei prossimi giorni. Intesa San Paolo più 0,17%, è poco mosso questo gruppo che da qualche giorno ha un nuovo amministratore delegato, ma oggi per la verità ha avuto una buona sorpresa contabile che porterà guadagni extra alla società come se le banche ne avessero bisogno, ma forse adesso c'è bisogno di tutto, Livia. Infatti praticamente la società grazie ad alcuni elementi extra contabili nel quarto trimestre avrà un guadagno extra di circa 1 miliardo di euro dopo profitti straordinari sempre di 1,1 miliardi registrati già nel terzo trimestre. Si tratta di una questione tecnica ed è legata all'introduzione di chiarimenti ad una normativa fiscale grazie ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emanato il 22 novembre scorso. Si tratta di una appunto di una questione tecnica, ma comunque di un guadagno extracontabile di 1 miliardo, quindi comunque una cifra consistente. Livia, 10 secondi di tempo per raccontare di un'altra storia importante oggi di Milano, Edison o Seat? Sì, allora Seat, per quanto riguarda Seat, perché ha chiuso in rialzo del 25,8%, quindi è stato il miglior titolo del listino milanese. Il mercato scommette sul raggiungimento a breve di un via libera, quindi di un accordo sulla ristrutturazione del debito. Del quale magari, scusami se ti interrompo, non abbiamo più tempo, bisognerà parlare perché magari ci sono ancora tanti piccoli azionisti che vogliono conoscere bene le sorti di questo gruppo. Grazie a Livia Zancaner di Radio Col Sole 24, ci fermiamo, giornale radio, Focus Economia ritorna subito dopo. Sono le 18.08, ancora buonasera da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia per la seconda parte di questa trasmissione dedicata come sempre al racconto della giornata economico-finanziaria. Vi abbiamo già detto quello che è accaduto oggi in borsa, che è stata una giornata positiva, per fortuna ondivaga per la verità, perché le cose stamattina non erano iniziate particolarmente bene e peraltro era un segno meno anche abbastanza atteso dopo i forti rialzi di ieri. Invece nella seconda parte della giornata le borse ci hanno ripensato e hanno portato a casa un consolidamento dei rialzi di ieri. Francoforte ha chiuso con un più 0,9%, Londra più 0,46%, Parigi più 0,46%, fanalino di coda Milano più 0,34%. È stata una giornata anche molto interessante dal punto di vista, tanto per cambiare, nell'andamento del mercato obbligazionario, perché oggi erano attese nuove aste organizzate dal Tesoro italiano che per fortuna hanno tenuto, ma naturalmente, come sta accadendo ormai da mesi, i rendimenti e le remunerazioni chieste dagli investitori appunto stanno volando sempre più in su. Lo saluto già, Maria Longo, ciao, collega del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Prima di parlare di questo argomento, e di raccontare qual è stato l'esito dell'asta di oggi, ma soprattutto, visto che questa ormai l'abbiamo portata a casa, prima di fare anche una previsione su quelli che potrebbero essere poi i risultati dei prossimi appuntamenti, ti racconto un'altra storia. Se abbiamo già in collegamento il collega del Sole 24 Ore, Giuseppe Chiellino, che saluto. Giuseppe, buonasera. Buonasera Deborah, a te e agli ascoltatori. Allora, perché lo abbiamo interpellato? Vi leggo il pezzo del Sole 24 Ore di oggi, l'attacco. Da qualche mese la Svizzera è balzata in cima alla lista dei paesi verso cui le nostre esportazioni crescono di più, a tassi del 30-40% su base annua. Altro che i BRICS, ma la forza della manifattura italiana non c'entra nulla e neanche il cambio, fermo ormai da qualche settimana. Giuseppe, che cosa stanno portando verso la Svizzera gli italiani da qualche mese a questa parte, in maniera così evidente, forte? Sì, siamo andati a vedere, a spulciare nei dati dell'Istat, abbiamo scoperto che la voce che cresceva di più in maniera esponenziale, impetuosa rispetto ai mesi scorsi, era l'esportazione di oro greggio non monetario, tradotto volgarmente lingotti d'oro. Quindi tu lo hai scoperto indagando sulle ultime statistiche dell'Istat? Le ultime statistiche sull'export italiano, quelle di agosto, di settembre e anche quelle di ottobre. Su quelle di ottobre non ci sono ancora i dati disaggregati, ma il dato complessivo sulla Svizzera è sempre dell'ordine del 30-40%. Significa che l'oro, le esportazioni di oro sono cresciute tra il 140 e il 150%. Parliamo di lingotti, come dicevo prima, e non di gioielli, quindi lingotti che vengono poi depositati in cassette di sicurezza fino a quando c'erano cassette di sicurezza disponibili. E infatti, perché da un bel pezzo che quelle sono esaurite in Svizzera. Noi l'abbiamo raccontato anche peraltro lo scorso agosto con un'altra inchiesta di un altro collega del Sole, che è Alessandro Galimberti, che aveva proprio già monitorato come questo fenomeno fosse evidente. E dove le mettono allora? Ecco, Giuseppe, l'alternativa è quella di lasciarla in deposito in banca, presso la banca alla quale si chiede di acquistare l'oro e di, per conto del risparmiatore, del correntista, e di lasciare poi l'oro in deposito. Questa modalità non è dal punto di vista della sicurezza del risparmio, di protezione del risparmio, non è la stessa cosa che avere l'oro nella cassetta di sicurezza. Le motivazioni credo che non ci sia bisogno di ricordarle. No, ma magari ricordiamolo se qualcuno avesse la tentazione di ovviamente accodarsi a questo flusso e portare qualche lingotto. Peraltro poi mi interesserebbe anche capire di chi erano queste 13 tonnellate di lingotti che in settembre solo hanno valicato le Alpi. Sì. Giuseppe. Di chi erano, questo listat ovviamente non riesce a dire. Possiamo dire però che il 40% è stato venduto da banche e società finanziarie e un altro 35% circa da società commerciali, quindi questi sono i soggetti che hanno venduto l'oro agli acquirenti che dalla Svizzera lo acquistavano per clienti italiani. Questo abbiamo scoperto andando a fare un giro nel Ticino, a Lugano, parlando con qualche gestore, con alcune fiduciarie che ci hanno spiegato quello che sta avvenendo. In pratica, quindi sono le banche che si sono in qualche maniera liberate vendendole delle loro riserve? Le banche italiane questo non ce l'hanno detto, non ce l'hanno voluto dire, però dai dati dell'Istat risulta che a vendere in buona parte, una buona fetta l'hanno venduto società finanziarie e bancarie, quindi... Però le banche italiane, abbiamo chiesto ad alcune delle principali e ci hanno detto di non saperne nulla, quindi io mi fido. Ecco. Allora, prima ci dicevi appunto che non è poi così conveniente e così sicuro, al posto della cassetta di sicurezza, da tenere appunto proprio come conto di deposito il lingotto in una banca svizzera. Perché? Esatto, perché se la motivazione è esportare del capitale, mettere al riparo del capitale che presumibilmente è denominato in euro prima di essere convertito in lingotti, metterlo al riparo, quindi perché viene trasformato in oro e perché poi viene depositato in Svizzera, quindi in un paese fuori dall'euro, si presume che le motivazioni siano la paura che l'euro crolli da un lato e la paura di nuove imposizioni o comunque di imposizioni patrimoniali di cui si discute da tempo in Italia. Questa modalità, ci ha spiegato l'Associazione delle Banche Svizzere, però non mette al riparo questi capitali da eventuali nuove tassazioni, perché gli accordi che la Svizzera ha appena fatto con la Germania e con il Regno Unito la tassazione di conti correnti di cittadini tedeschi o inglesi detenuti in Svizzera prevede che anche i depositi in metalli preziosi vengano sottoposti a tassazione. Quindi se un cittadino italiano ha un conto in Svizzera in cui ci sono anche depositi in oro, va denunciato al fisco italiano. Va denunciato al fisco italiano nel momento in cui la Svizzera farà, se lo farà, lo stesso accordo che ha fatto con la Germania e con il Regno Unito con l'Italia, è un'altra cosa di cui si discute da tempo e che presumibilmente potrebbe arriverà. Essere fatta. Ma alla luce magari di questo fenomeno che tu hai evidenziato sul giornale, appunto, chissà che questa misura non si velocizzi. Giuseppe, grazie per essere stato con noi, dobbiamo andare in pausa, e comunque insomma una cosa molto interessante da continuare a monitorare probabilmente attentamente. Sicuramente per depositare questi lingotti Moria, le banche svizzere non hanno bisogno come collaterali di titoli di Stato. No, credo che l'oro sia sufficiente. Sia più che sufficiente. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio. Tra un pochino ritorniamo subito appunto per parlare dell'asta del tesoro di oggi. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, come promesso, oggi vi diamo conto adesso dell'esito dell'asta dei BTP italiani che era prevista per oggi, un nuovo test molto importante. C'era in programma un paio di emissioni piuttosto corpose, non corposissime, fra i 5 e gli 8 miliardi di euro. La domanda per fortuna è stata buona, ma naturalmente per acquistare questi titoli gli investitori chiedono rendimenti sempre più alti. Allora, per fare il punto della situazione ho già salutato Moria Longo, che poi ci racconterà ed anticiperà i prossimi appuntamenti sul mercato per il tesoro italiano, ma per spiegarvi com'è andata oggi abbiamo interpellato un gestore, Laura Di Luca, gestore obbligazionario di Anima SGR. Dottoressa Di Luca, buonasera. Buonasera Deborah, buonasera agli ascoltatori. Allora, abbiamo avuto, intanto le volevo chiedere, queste due aste hanno chiesto appunto, sono andate bene, i rendimenti molto chiesti, bene. Adesso li racconteremo ai nostri ascoltatori, hanno avuto un effetto abbastanza curioso, mi chiedo se è stato razionale, magari ho capito male io, sull'andamento dello spread, perché il differenziale di rendimento stamattina tra i titoli italiani e quello tedesco, e quelli tedeschi, erano di nuovo sui 510-520 punti base in avvio di giornata. Questo nonostante siamo anche all'indomani del BTP Day, che secondo molti è stato un successo, ma anche lì bisogna magari fare un ragionamento a parte su questo appuntamento che ha chiamato in massa i piccoli investitori a sottoscrivere titoli del tesoro. Subito dopo l'asta, che comunque ha chiesto rendimenti molto alti, lo spread è sceso in maniera abbastanza forte subito, per poi risalire 492 punti base. È stata una reazione motivata appunto dall'esito dell'asta? Sì, diciamo che sicuramente lo scoglio era molto importante oggi da superare, soprattutto non tanto per un discorso appunto di rendimento, che ci posizioniamo verso sempre rendimenti piuttosto alti riferiti naturalmente agli ultimi 10 giorni, non naturalmente rispetto all'asta precedente, però in ogni caso ha dato un forte segnale positivo di quello che può essere l'interpretazione del mercato italiano in questo momento. Soprattutto dalla domanda estera, abbiamo visto un hedge fund anche comprare, c'è un forte corto di mercato che ha sicuramente rassicurato un minimo i mercati. Lo spread, sappiamo benissimo, non è determinato semplicemente e sicuramente riferito all'Italia, ma sono tante le cose cui dobbiamo lavorare nei prossimi giorni, come governo sto parlando, quindi sicuramente l'asta è, l'obbligo è stato comunque in questo momento di stabilizzare la situazione. Siamo di fronte a un percorso importante di ristrutturazione del paese, ma un percorso che non sarà semplice, dobbiamo abituarci a una situazione ancora di volatilità, però sappiamo che le forze in campo sono enormi, non soltanto in Italia, abbiamo anche una Banca Centrale Europea che sembra leggermente muoversi verso una direzione di più apertura. Abbiamo una Germania che comunque subisce anche lei l'effetto di questa crisi del debito europeo, abbiamo visto anche l'asta in Germania pochi giorni fa avere un risultato piuttosto deludente. importante, quindi diciamo le forze in campo sono tante, sono potenti e dobbiamo lasciare il tempo tecnicamente a mettere in piedi le cose corrette per poter e infatti per sollecitare in questo senso gli investitori continuano a chiedere tassi superiori al 7% per i nostri titoli. Appunto, ci dà il punto della situazione e il termometro di quello che è accaduto oggi, dottoressa Di Luca, poi vado a Moria Lungo. Come sono andati i rendimenti appunto dei decennali e dei triennali collocati oggi? Sicuramente sono indubbiamente il risultato dell'asta è stato ottimo. Se lo guardiamo poco prima dell'asta, il triennale viaggiava intorno all'8,05, subito dopo l'asta è stato emesso intorno al 7,89 e addirittura è sceso anche addirittura dopo l'asta, quindi siamo andati, quindi visto proprio nella giornata di oggi il rendimento è stato tra virgolette eccezionale, molto molto buono. Anche i titoli a 10 anni sono stati piazzati al 7,56 e 7,28 il 2020, quindi rendimenti riferiti alla giornata di oggi comunque buoni. È logico che non devono essere visti in un contesto tra virgolette mensili, perché comunque fanno più paura. Adesso la cosa importante è che abbiamo ancora altre due aste da qui a fine anno, dobbiamo mantenere lo stesso livello di credibilità, perché non possiamo permetterci di non andare sul mercato. Sono circa 16,6 miliardi, è importante soprattutto mantenere questa situazione di fiducia in questo momento. Grazie a Laura Di Luca, gestore obbligazionario di Anima SGR, buona serata, grazie molte. Buonasera, grazie a voi. Ci anticipava la dottoressa Di Luca Mori appunto i prossimi appuntamenti del Tesoro italiano. Ovviamente siamo ormai ossessionati dal controllare questi appuntamenti. Tra l'altro abbiamo detto anche nei giorni scorsi, lo abbiamo ricordato più volte, negli anni passati eravamo abituati anche ad un annullamento da parte del Tesoro delle aste di fine anno quando appunto si raggiungeva il fabbisogno necessario. Quest'anno l'annullamento delle aste previste potrebbe essere un segnale invece colto diversamente. Sì, se ci fosse sì, adesso il mercato è talmente nervoso che anche cose che accadono sempre, da sempre, possono essere lette male. Tornando al tema delle aste, secondo me la cosa fondamentale è questo rialzo fortissimo dei rendimenti, perché a ottobre, adesso non ho sotto mano, ma il rendimento era 4,9% per i titoli triennali, oggi sono stati collocati quasi all'8%, a 7,8%. Quindi è vero che sono stabili, però sono stabili su livelli che sarebbe meglio non vedere, per cui l'asta secondo me ha dato un messaggio positivo, come dicevate adesso, perché c'è stata domanda, non è andata deserta, gli investitori sono venuti, per cui meno male che c'è stata domanda, però i livelli di rendimenti sono troppo alti. Sono troppo alti perché l'Italia ha un debito molto grosso, 1.900 miliardi di euro, e la crescita economica non c'è, anzi è stimata per l'anno prossimo una lieve recessione. 0,5% ecco. Secondo quanto ha detto ieri ecco, l'Ocse. Per cui per avere sostenibile un debito così grande con interessi così alti, l'Italia dovrebbe avere una crescita economica sufficiente a generare quelle entrate fiscali, da quelle entrate per lo Stato, in grado di onorare i debiti, altrimenti gli interessi sul debito vengono pagati, se vengono pagati, emettendo nuovo debito, quindi aumentando il debito. Quindi questa si innesta una spirale eccessiva. È ovvio che un picco, se dura un po' di tempo, non cambia nulla, perché l'Italia ha un debito, come dicevo, molto grosso, con una durata media di 7 anni e passa, per cui un picco di un mese non cambia nulla nella media del tasso di interesse pagato dallo Stato, ma se questo picco dovesse restare per molto tempo creerebbe ovviamente problemi. Poi la seconda preoccupazione è un'altra, è quella che della cosiddetta crisi di liquidità. L'Italia ha tanti fondamentali economici solidi, a prescindere da questo debito pubblico altissimo, però non abbiamo poco deficit, anzi a livello di bilancio primario, quindi escludendo la spesa per interessi, siamo addirittura in avanzo. Abbiamo un risparmio delle famiglie forte, abbiamo un sistema bancario indebolito per la crisi, ma al netto della crisi forte. Quindi il problema qual è? È la crisi di liquidità, è il fatto che se a un certo punto il mercato ci volta veramente le spalle. Per questo è importante la fiducia. Do solo due numeri per capire il problema. L'anno prossimo, questi sono dati di Bloomberg, l'Italia dovrà rimborsare i titoli di Stato in scadenza, saranno 320 miliardi di ammontare nominale, e in più dovrà pagare 55 miliardi di tassi di interesse, quindi sono 375 miliardi. Da unire a questi ci sono le obbligazioni bancarie, che ormai per gli investitori sono la stessa cosa. Bond di Banca Intesa, un bond dello Stato italiano, per l'investitore estero è la stessa identica cosa come rischio. Ecco, solo le prime tre banche italiane, Intesa, Unicredit e Montepaschi, dovranno rimborsare l'anno prossimo 76 miliardi di titoli bancari e pagare 12 miliardi di interesse. Sommando le due cose si vede una grossissima concentrazione, quindi di necessità finanziaria. Lo Stato italiano, inteso come Stato, inteso come banche, dovrà andare molto sul mercato a chiedere per soldi. Per non aprire poi la parentesi delle ricapitalizzazioni, se dovranno farle, perché non è una preoccupazione di minor conto, anche quella, sono sempre soldi da tirar fuori. Quello è ecco. Assolutamente. Il rischio da evitare è una crisi di fiducia, appunto, e da evitare che il mercato non ci presti più i soldi e a un certo punto dica no, siete troppo rischiosi. Per cui è necessaria l'azione, in questo caso un'azione politica serve per ristabilire la fiducia, quantomeno mantenere quella attuale. Paghiamo tanto, ma quantomeno, come l'asta di oggi, la domanda c'è stata. Ed è necessaria l'azione italiana, perché l'Italia non si deve sottrarre, ma anche l'azione europea. E dal mio punto di vista è interessante questa proposta che è stata fatta nell'ultimo weekend da Merkel e Sarkozy, cancelliere tedesco e presidente francese, di fare i primi passi verso un'unione fiscale europea. Mm-hmm. Perché se ci fosse quella, potrebbe essere la premessa per i cosiddetti eurobond, cioè titoli di Stato collettivi dell'area euro. Allora in tal caso, veramente, secondo tanti economisti, e io sono dello stesso parere, potrebbe essere trovata la quadratura del cerchio e ristabilire la fiducia. Per quel punto non ci sarebbero più i titoli di Stato italiani, francesi, tedeschi, ma ci sarebbe il titolo di Stato dell'area euro solo per i paesi che aderiscono a questa unione fiscale, e quello potrebbe una essere una sorta di treasury. Però bisogna dare un segnale, ovvio che una cosa così non si fa dall'oggi a domani, ma bisogna dimostrare al mercato che c'è la volontà di farla oggi. Esatto, senza ostacoli tedeschi soprattutto di nessun tipo. Ti leggo intanto, guarda, fra un po' dobbiamo anche chiudere, Moria, quanto afferma il rapporto della Commissione europea sull'Italia, che viene presentato appunto in sede Eurogruppo proprio in queste ore dal commissario europeo Olli Rehn a Mario Monti. Tassi di interesse elevati in modo persistente aumentano i rischi di una fuga dai bond italiani, quindi Bruxelles certifica questa preoccupazione formalmente, e ancora il rapporto dice che in assenza di una risposta determinata può aumentare rapidamente il rischio di un avvitamento della crisi di liquidità. Peraltro sembra proprio questa una conferma anche delle parole espresse da tutt'altra parte da Nouriel Roubini, l'economista della New York University, che in questa crisi poche volte ha mostrato di sbagliare le sue indicazioni, che ha detto: è sempre più chiaro che il debito pubblico italiano è insostenibile e deve essere ristrutturato in maniera organizzata per evitare un default caotico che nessuno vuole. Io personalmente non sarei così drastico, il rischio assolutamente è altissimo, ma io credo che se la risposta politica in Europa e in Italia, ma principalmente in Europa, noi dobbiamo fare la nostra parte ma anche loro, c'è ed è chiara ed è evidente e si dà subito un segnale che le cose cambieranno, si farà l'unione fiscale, gli Stati Uniti d'Europa dal punto di vista anche fiscale, io credo che questo potrebbe essere un segnale importante per invertire il ciclo. Grazie a Moria Longo, vi ricordo domani su tutti questi argomenti, peraltro con il Sole 24 Ore, la bussola per i risparmiatori. Io ringrazio Mauro Del Corno, Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione, Paolino Corleone in assistenza tecnica. Domani a Focus Economia, non vi preoccupate, ritorna Sebastiano Barisoni. Per quello che mi riguarda, ci sentiamo domani. Domani a Salvadanaio, buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.